Incontri di Gianfranco Fabi. Note del Bel Danubio Blu, potremmo dire sulle onde del Bel Danubio Blu di Richard Strauss, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera al professor Mario De Ario. Buonasera, buonasera a tutti. Mario De Ario è docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista economico della Stampa, è stato anche direttore del Sole 24 Ore degli anni 80 ed è curatore del rapporto per il centro Einaudi, il rapporto sull'economia globale dell'Italia, che è giunto alla sua 19ª edizione, di cui parleremo anche questa sera. Il Danubio Blu ci ricorda il concerto di Capodanno, facciamo gli auguri di buon anno a quanti ci ascoltano. Ricorda anche un fiume che segna l'Europa, nasce in Germania, percorre l'Austria, la Mitteleuropa. Ecco, l'Europa, potremmo iniziare da questo, professor De Ario, come sta l'Europa in questo 2014? L'Europa è in zona problematica, non diciamo critica, ma diciamo problematica, cioè deve prendere delle decisioni, deve risolvere dei problemi, svoltare o da una parte o da un'altra. Andare avanti così per inerzia come ha fatto in questi anni non si può più. Ecco, in un certo senso l'Europa ha lo stesso problema dell'Italia, si crea dei problemi da sola, nel senso che la propria inefficienza aumenta i problemi. Nel rapporto del centro Einaudi, rapporto che ricordo peraltro è anche un libro che si intitola Un disperato bisogno di crescere, edito da Guerini e Associati, ecco, nel rapporto del centro Einaudi all'Europa voi dite possiamo dedicare tantissime pagine, ci concentriamo sull'energia. Ecco, l'energia è uno dei punti deboli, uno dei punti critici dell'Europa. Assolutamente, cioè l'energia è storicamente un settore in cui l'Europa deve importare, quella che produce è largamente insufficiente ai suoi bisogni e per importarla bisogna fare delle scelte. Queste scelte sono, ne elenchiamo 5 possibili, sono peraltro scelte che sono in parte economiche, cioè prendere petrolio, investire in certe zone per avere petrolio e altre fonti, e in parte politiche, perché andare a avere dei rapporti particolari con una parte del mondo significa che non si hanno con altri. Ecco, questa parte del mondo è la Russia, c'è in primo piano la crisi dell'Ucraina, ma c'è anche un elemento che è venuto a galla nelle ultime settimane, che è questo calo del prezzo del petrolio. Questo da una parte può essere un vantaggio, ma dall'altro crea dei problemi, perché certi investimenti non sono più economici, professor De Ario. Assolutamente, in genere i paesi produttori dell'OPEC hanno fatto questo tutte le volte che gli investimenti in energie alternative diventavano importanti e minacciavano di togliere loro il mercato. Allora si butta giù il prezzo del petrolio, buttando giù questi investimenti di colpo vanno fuori mercato, quindi diventano non proponibili, e così il petrolio riprende una fetta di mercato che aveva perso almeno per qualche tempo. Non è un gioco che riesce all'infinito, ma questa volta ci stanno provando avendo di mira non tanto le energie alternative nostre, l'energia solare eccetera, che più di un certo livello difficilmente raggiungeranno, ma il nuovo petrolio americano, questo strano petrolio e gas combustibile americano che si ottiene dalla frantumazione delle rocce. Certo, un petrolio americano che gli americani si propongono anche di esportare per la prima volta dopo essere stati per decenni consumatori di petrolio, oltre che produttori, sono tra i più grandi produttori mondiali, però si propongono di esportare, con le nuove tecniche possono esportare anche, oltre che il petrolio, anche il gas verso l'Europa. Quindi c'è la concorrenza degli Stati Uniti verso i paesi arabi. Ecco, è ben lì che, se vogliamo, casca l'asino. Perché questo nuovo petrolio americano, se consumato, questo gas soprattutto, se consumato nel giro di qualche centinaio di chilometri dai giacimenti, è sicuramente competitivo. se bisogna portarlo in Europa e bisogna ridurlo allo stato liquido e poi rigassificarlo una volta che è in Europa, il prezzo aumenta fortemente. E allora in questo momento, con la concorrenza di un petrolio a 60-65 dollari al barile, non ce la fanno gli americani a esportare. Ecco, quindi un conflitto internazionale in cui noi siamo assolutamente in mezzo e dovremo prendere delle decisioni. Ecco, prendere delle decisioni. Noi siamo al centro di questo conflitto, lei giustamente dice, ma siamo al centro anche di quello che nel rapporto viene chiamato il vortice del cambiamento. È un cambiamento che sta interessando un po' tutti gli elementi dell'economia, ma soprattutto direi della società, del rapporto tra i paesi e del rapporto tra i diversi fattori che stanno alla base dell'economia, con le persone e le famiglie, ovviamente con le imprese in primo piano. Ecco, all'inizio, proprio uno dei primi capitoli parla di nuova cattiveria globale. Che cosa si intende, professor De Aglio? Ma è successo qualcosa di molto strano, e cioè noi siamo entrati nella crisi con gli Stati Uniti, che erano senza discussione la prima potenza mondiale, e in qualche modo tutti riconoscevano a loro un diritto, diciamo, di indirizzo dell'economia, della società mondiale. Poi, non essendo riusciti a risolvere la crisi, avevano promesso che sarebbero stati capaci, stampando nuovi dollari, purché noi continuassimo ad accettarli, a tirare fuori il mondo dalla crisi. In realtà il mondo, soprattutto gli altri paesi sviluppati, non sono riusciti a venirne fuori. Da un clima di collaborazione che è prevalso fino al 2009-2010, si è passati a un clima di dispetti reciproci. E tutti si fanno dei dispetti in questo momento nel mondo, dai dispetti grossi tipo Ucraina, ai dispetti all'interno dell'Unione Europea, dove basta scorrere le cronache per vedere le punture di spillo degli uni contro gli altri, dispetti tra America ed Europa, sempre sulla questione Ucraina e in altre cose, fino alle cose più gravi che troviamo in giro per il mondo, anche all'interno di paesi come la Cina, dove abbiamo le tensioni di Hong Kong, vediamo tutta una serie di cose in India, in Africa, eccetera. Quindi un mondo, purtroppo, in cui la collaborazione è diventata una merce rara. Ecco, il dispetto è una maniera indubbiamente elegante per parlare di crisi, per parlare di confronto, parlare purtroppo ogni tanto anche di guerre che sono drammatiche e tragiche nelle loro conseguenze. Ma a livello economico, nel rapporto si parla di un nuovo protezionismo, un protezionismo del XXI secolo. Cioè avviamo a una svolta dopo l'apertura dei mercati, dopo la realizzazione in Europa del mercato unico, ma dopo le aperture possibili, di cui si parla ancora, di questo accordo transatlantico. Invece stiamo andando verso un nuovo protezionismo? Stiamo andando verso, il protezionismo tradizionale riguardava le merci, quindi c'era una dogana, alla dogana io mettevo un dazio, con questo dazio la merce importata diventava più cara di quella prodotta all'interno, di fatto non si importava più. Ma oggi bisogna rendersi conto che in un paese moderno i tre quarti di quello che si produce sono cose invisibili, sono servizi, sono salute, cultura, spettacolo, istruzione, tempo libero, eccetera. E queste cose non passano una linea doganale, non hanno una forma fisica e non possono nemmeno essere messe in magazzino. Allora, questo modo di produzione ha scatenato un altro tipo di protezionismo, e cioè, per esempio, se tu ti chiami Google e vendi da me dei servizi, ma ti fai tassare in un altro paese perché questi servizi viaggiano sulle onde internet, io non sono d'accordo, voglio che la cosa venga tassata qui. Certo. E allora ecco il tipo di guerre commerciali, perché i paesi o i gruppi di paesi vogliono imporre una sovranità anche su questi servizi invisibili. Ecco, quindi c'è un nuovo tipo di protezionismo, un nuovo tipo di ricerca appunto di sovranità, però è un po' difficile contrastare una tecnologia che è galoppante, e il terremoto tecnologico fa parte di uno dei capitoli di questo vortice del cambiamento. sì, proprio cambia il modo di produzione. Nella produzione industriale normale ci sono delle spese fisse importanti, si fanno dei grandi stabilimenti, ma poi la materia prima conta molto, il costo del lavoro conta molto man mano che si produce, quindi una parte dei costi importante è relativa al singolo oggetto che viene prodotto e comprato. Invece in molti servizi nuovi legati all'elettronica non è così. Il 90% della spesa si fa prima di produrre anche un solo servizio, perché devo mettere a posto il sito, devo fare tutta la parte diciamo informatica della cosa. Poi la produzione assume la forma di un click del cliente. Ed è tutto virtuale. Incontri. Ancora sulle note augurali del Bel Danubio Blu che sentiremo nel concerto di Capodanno tra pochi giorni da Vienna, riprendiamo il nostro incontro con il professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa, curatore del rapporto del Centro Einaudi sull'economia globale in Italia, giunto alla sua 19ª edizione. Quest'anno il titolo è Un disperato bisogno di crescere, edito da Guerini Associati, si può trovare in libreria. Abbiamo parlato nella prima parte dello scenario globale, dei cambiamenti geografici, politici, dei nuovi contrasti, dei nuovi protezionismi, delle nuove tecnologie, e vorrei parlare in questa seconda parte anche di questa nostra Italia in cui ci troviamo a dover giocare. Ecco, il titolo Un disperato bisogno di crescere, professor De Aglio, si riferisce molto bene all'Italia. Dirò che siamo stati molto incerti su questo titolo, volevamo fare un qualcosa di più leggero alla ricerca della crescita perduta, come imitando il famoso titolo Alla ricerca dell'arca perduta, cose del genere. Poi parlando in giro abbiamo sentito questo senso di grande urgenza della crescita, abbiamo messo disperato di proposito, perché mi sembra che una impressione diffusa è che o ce la facciamo adesso oppure non ce la facciamo più, cioè scendiamo di un gradino, non siamo più uno dei paesi leader del mondo, ma siamo in una categoria intermedia. Ecco, anche perché sulle difficoltà attuali ci sono da pagare anche i debiti del passato, le difficoltà attuali si innestano su purtroppo non anni ma decenni di crescita molto lenta, cioè è una difficoltà strutturale quella italiana. Guardi, io dico sempre che il resto del mondo soffre di una malattia, questa crisi che è equiparabile a una polmonite, cioè una malattia intensa che sperabilmente ha una durata poi limitata nel tempo. Per l'Italia le malattie sono due, cioè la polmonite della crisi si innesta su una più lunga malattia, che diciamo un diabete, che dura da 20 anni. Allora, chi prende la polmonite ma anche il diabete è più a rischio di chi ha soltanto la polmonite, ma se no è un uomo sano. Indubbiamente è più a rischio, però ecco, allora cerchiamo di vedere un po' in questa nostra realtà, guardando anche al 2015, quelli che possono essere gli elementi positivi su cui innestare anche questo bisogno di crescere e questa possibilità di crescere. Tra l'altro proprio nel rapporto c'è nelle ultime pagine un capitolo di Giuseppe Russo dove si parla di bordo d'argento delle nuvole nere, devo dire, anche nelle nuvole nere comunque c'è qualche elemento positivo. Ecco, può essere un elemento positivo per esempio il fatto che c'è un interesse degli stranieri sull'Italia, ci sono imprese italiane che vengono acquisite da imprese straniere, da imprese che so, l'ultima, la Indesit, che è entrata nel grande gruppo della Whirlpool, indubbiamente anche di fronte ad una crisi abbastanza forte in quel settore, però c'è questo interesse comunque degli stranieri verso l'Italia, questo vuol dire che comunque la realtà italiana ha degli elementi che possono far pensare a una possibilità di crescita e di sviluppo. Direi di sì, noi abbiamo tantissime cose a nostro favore e non riusciamo a metterle assieme. Intanto una struttura di imprese medie tecnologicamente a posto, addirittura tecnologicamente leader dei loro settori, molte volte dei settori nicchia nel mondo in cui siamo largamente i primi o sempre tra i primi. Due esempi tra tutti, uno gli apparecchi sportivi. cioè tutte le attrezzature delle palestre e cose del genere sono largamente italiane, e gli apparecchi medicali, cioè le attrezzature che riguardano gli studi medici, le macchine per fare le diagnosi e cose del genere, sono l'Italia mi pare ha un 25% del mercato mondiale, quindi abbiamo diversi settori in nicchia di questo tipo. Questi sono sicuramente elementi positivi. Un terzo elemento positivo, di cui ci dimentichiamo regolarmente, è che a fronte del debito pubblico noi abbiamo una ricchezza privata. Se andiamo a vedere le risorse finanziarie detenute dalle famiglie italiane, sono tra le maggiori del mondo, pro capite, no? Siamo uno dei paesi in cui le famiglie hanno in mano i soldi. Naturalmente molti ascoltatori diranno come le famiglie, sappiamo che c'è un aumento della povertà, nel loro complesso però le famiglie italiane detengono libretti di risparmio, depositi, azioni, fondi eccetera, come pochi altri paesi. Ci siamo noi, i francesi, un po' con gli spagnoli. Certo, allora bisognerebbe anche che le famiglie decidessero che una parte di queste risorse si possono anche spendere. Certo. E invece qui mi spiace di dirlo in una sede di un giornale, insomma, ma l'informazione in Italia ha sempre messo in evidenza in questi anni i lati gravi delle statistiche. Le statistiche effettivamente indicano un rallentamento, un declino, eccetera, ma in questo declino non tutti i settori sono uguali e non è vero che sia un declino uniforme, cioè che vada sempre giù, ci sono anche delle tendenze in senso contrario. Ecco, una domanda che comunque l'avrei fatto anch'io, quella su come viene rappresentata l'economia dai giornali, ma anche un po' dagli economisti, nel senso che le statistiche danno una media, però la media è fatta da cose che vanno bene e cose che vanno male. Forse c'è un po' di ritrosia a parlare delle cose che vanno bene. Infatti, le cose che fanno bene non fanno notizia. Ecco, questo è uno dei problemi dei giornali, forse anche per quello che si vendono un po' poco giornali. Ci sono poche notizie buone e leggere i giornali crea un po' di angoscia in questo periodo. Esattamente, ma quando noi poi ci troviamo, cosa che è classica degli ultimi sei mesi, che il dato sul mese precedente ha il segno più, ma invece il dato sull'anno precedente, lo stesso mese, ha il segno meno, quindi c'è un dato ambivalente. I titoli dei giornali, delle televisioni, delle agenzie si fanno sempre sul segno meno. E questo segno più dici sì, poi nell'ultimo mese è andato un po' meglio. In realtà bisognerebbe fare attenzione, bisognerebbe essere più equilibrati, perché i segni più vanno coccolati, vanno in qualche modo valorizzati, mentre invece vengono completamente trascurati, gettando disperazione nella gente. Ecco, infatti bisognerebbe creare un clima di fiducia. La fiducia è un po' il motore dell'economia. Stiamo un po' guardando in avanti, andando verso il 2015. Lei cosa farebbe, cosa consiglierebbe per un'economia italiana in cui poi appunto i protagonisti devono essere le persone, le imprese, le famiglie, di guardare con fiducia comunque, certamente forse non a una ripresa quantitativa, però ha un modo anche diverso, ha una diversa soluzione di tanti problemi, forse con un po' più di partecipazione, non tanti contrasti come ci sono stati in passato. Beh, esattamente così, cioè la cosa che bisogna dire agli italiani che lo possono fare, perché hanno le risorse finanziarie per farlo. Cari italiani, quella spesa che avete rinviato perché avete paura della crisi, per cui non avete cambiato l'auto, il frigorifero, non avete comprato il mobile nuovo, eccetera, perché non si sa mai, c'è la crisi, ebbene quella spesa fatela, se potete farla, non aspettate soltanto perché c'è la crisi, perché in questo modo aggravate la crisi. Se invece la fate, contribuite a risolvere la crisi. In sostanza la crisi non dipende soltanto, e l'uscita dalla crisi non dipende soltanto dai governi, dai provvedimenti, dalle aliquote fiscali, dipende anche da come gli italiani vedono se stessi e vedono il loro futuro. Ecco, una ripresa un po' dell'ottimismo nel guardare il futuro, magari anche, professore, facendo qualche figlio in più. Il problema demografico è un problema molto forte per l'Italia. Il problema demografico è un problema forte, anche lì in tutti i paesi occidentali abbiamo notato da quando c'è la crisi un calo della natalità. Ora, che questa cosa dura 2 o 3 anni, sono incidenti di percorso, ma se invece diventa un fatto stabile, allora non illudiamoci di poter tenere la nostra società così come è adesso. Quindi l'atteggiamento nuovo, positivo verso la realtà che gli italiani devono fare, lo devono fare non solo sul presente ma anche sul futuro. Ecco, e proprio guardando al futuro, il rapporto si conclude citando André Fossard: l'Europa non può accontentarsi di avere una moneta unica, deve avere anche un'anima. Oggi come oggi quest'anima sembra mancare all'Europa, benché quasi certamente sta vivendo un'esistenza sotterranea. È tempo di farla emergere, un'anima europea, un'anima appunto di partecipazione, di unità, forse riprendere un po' quella che era stata l'ispirazione originaria dopo la guerra, della ricostruzione, di quello che ha creato il miracolo economico. Ecco, riprenderla senza avere bisogno di una guerra, questo deve essere possibile, professor De Ario. Io penso che lo sia, la mia esperienza di docente universitario mi porta a valorizzare i progetti Erasmus, che hanno riguardato milioni di studenti universitari, i quali con questi progetti possono andare in un'università di un altro paese dell'Unione, frequentare e dare esami che vengono poi riconosciuti nell'università di origine. Allora è l'Europa dei giovani che si sentono europei quasi naturalmente in questa maniera. Io ho visto studenti tornare trasformati, cioè ci sono cadute delle barriere proprio di carattere mentale, e forse questa cosa degli studenti dovrebbe essere in vario modo estesa un po' a tutti. Ecco, quindi questa esperienza, così come la moneta unica, viene vista magari per gli aspetti che possono essere critici, ma sono tanti aspetti positivi che vengono dimenticati. L'euro è un po' in questo momento il capro espiatorio, quello con cui si appuntano le critiche, il responsabile di una crisi, ma si dimentica tutti gli elementi positivi che ci sono stati, in primo luogo il calo dei tassi di interesse. Assolutamente, poi i ricordi cattivi in genere si eliminano, ma io li ho ben chiari. Quando dirigevo il Sole 24 Ore, che erano i primi anni 80, ogni mese noi stavamo col fiato sospeso ad aspettare i dati della bilancia commerciale e della bilancia dei pagamenti, perché se esportavamo troppo poco, la lira andava subito giù. Certo. Noi abbiamo vissuto al riparo dell'ombrello dell'euro, per cui se esportiamo tanto o poco il cambio non è influenzato da questo, perché ci sono le esportazioni tedesche, le esportazioni francesi e via dicendo che ci coprono. Certo. Ecco, questo non va dimenticato. Se per caso mai non avessimo più l'euro, volessimo uscirne, eccetera, questa copertura non l'avremmo più, e quindi avremmo subito tutti i giorni la prospettiva di un rincaro di tutto quello che compriamo dall'estero. I problemi sarebbero molto molto maggiori delle soluzioni che ci sarebbero, e allora bisogna guardare con realismo anche a questa realtà. Un augurio per il 2015, professor De Ario. Ma l'augurio del 2015 è che gli economisti si siano sbagliati, così come si sono sbagliati tante volte in questo periodo. Non hanno previsto questa caduta produttiva del 2014, speriamo che non abbiano previsto anche la ripresa, che ci auguriamo sia più forte delle deboli previsioni, e quindi mandiamo gli economisti in soffitta l'anno nuovo, diamo alle famiglie, diamo agli operatori economici il primo posto, e speriamo che lo sappiano usare. Grazie professor De Ario, anche per questo, per questa autocritica che si coniuga comunque con un ottimismo di fronte al pessimismo della realtà, l'ottimismo della volontà, l'ottimismo della speranza. Grazie professor Mario De Ario di essere stato con noi questa sera. E ricordo, professor Mario De Ario è docente di economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Grazie professor De Ario, grazie anche a Marco Ferronato in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buona serata e buon anno.